figlio mio, custodisci le mie parole, conserva presso di te i miei precetti, custodisci i miei precetti e tu vivrai, e il mio insegnamento, come la pupilla dei tuoi occhi, attaccali alle tue dita, scrivili sulla tavoletta del tuo cuore, di alla sapienza, tu sei la mia sorella, chiama amica l'intelligenza per custodirti dalla donna altrui, dall'estranea che adopera parole seducenti. Alla finestra della mia casa, attraverso il mio cancelletto, io spiavo e ho visto tra gli ingenui, ho scorto tra i figliuoli un giovane povero di spirito. Passando per la strada dietro l'angolo, si incamminava verso la sua casa, al crepuscolo, dopo il tramontar del giorno, nel cuore della notte e dell'oscurità. Ecco una donna incontro a lui, cortigiana nel vestito, astuta nella mente, garrula irrequieta, in casa i suoi piedi non ci sanno stare. Ora sulla strada, ora nelle piazze, e dietro a tutti gli angoli sta in agguato. Lo tira a sé, lo stringe con un fare sfrontato, gli dice: «Avevo da far dei sacrifici, proprio oggi ho adempiuto i miei voti, per questo sono uscita e ti son venuta incontro col desiderio di incontrarti, e ti ho trovato. Con drappi ho adornato il mio giaciglio, con tappeti di stoffa egiziana». Ho cosparso il mio letto di mirra, di aloe e di cinnamomo. Vieni, inebriamoci d'amore fino al mattino, godiamo insieme nel piacere. Non c'è il marito in casa, è partito per un lontano viaggio. La borsa dell'argento ha portato via con sé, soltanto al plenilunio farà ritorno a casa. A furia di insistere, lo piega, con le lusinghe delle sue labbra lo seduce. Andando dietro a lei, lo scioccherello è condotto come un bue al macello e come un cervo che è preso al laccio, finché una spina non gli trafigge il fegato, come si affretta un uccello alla rete e ignora che si tratta della sua vita. E ora, figlio mio, ascoltami, fai attenzione alle parole di mia bocca. Non devii il tuo cuore seguendo le sue strade. Non ti smarrire mai sui suoi sentieri. Molti sono stati da lei feriti a morte, i più robusti sono stati le sue vittime. Via dello Sheol è la sua casa, discesa ai palazzi della morte.